Ci sono stati eventi nella storia il cui valore storico è tale da far sì che non siano mai più dimenticati. Pensiamo a Costantino, detto il Grande, il quale, nel 313, da signore dell'Occidente, si incontrò a Milano con Licinio, signore dell'Oriente, e così nacque quella disposizione legislativa che, attuando la tolleranza per i cristiani già sancita dall'editto di Galerio del 311, passò alla storia come Editto di Milano, Cristianesimi nell'Antichità, Giancarlo Rinaldi, Edizioni GBU, 2008, pag. 644. Ricordiamo pure l'anno 476, nel quale avvenne la caduta dell'Impero Romano, così come il 12 ottobre 1492, la data della scoperta dell'America centrale. Come popolo italiano ricordiamo molte date ed eventi il cui segno è riscontrabile ancora nella cultura e civiltà di oggi, ma, a mio avviso, un episodio in particolare, pur non avendo suscitato un grande scalpore, merita di essere ricordato per la sua straordinaria unicità. Mi riferisco all'iniziativa promossa da Rai Vaticano di trasmettere per televisione la lettura integrale e continuata della Bibbia, avvenimento svoltosi da domenica 5 a sabato 11 ottobre 2008 nella Basilica Romana di Santa Croce in Gerusalemme. L'originalità dell'iniziativa è scaturita anche dal fatto che alla lettura hanno partecipato numerose confessioni religiose diverse tra loro, la Santa Sede, la Confessione Episcopale Italiana, il Vicariato di Roma, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, l'Esarcato per l'Europa Meridionale, la Federazione delle Chiese Evangeliche. Inoltre hanno contribuito alla lettura personalità religiose di primo piano, così come personaggi famosi della politica, fra i quali alcuni emeriti ex presidenti della Repubblica come Ciampi, Scalfaro e Cossiga. Oltre questi anche personaggi dello spettacolo come Roberto Benigni e dello sport come la campionessa mondiale di scherma Valentina Vezzali. Un evento unico, non schicchi, è che dire, perché su Rai 1 sono state mandate in onda la prima e l'ultima ora dell'iniziativa, mentre su Rai Edu 2, un canale satellitare, è stata trasmessa l'intera diretta durata 139 ore. Ovviamente il Vaticano ha manipolato l'intero programma, infatti sono stati letti anche i libri apocrifi, ai quali sia ebrei sia protestanti assolutamente non attribuiscono un'autorità pari agli altri libri. Qualcuno potrebbe obiettare la mia opinione relativa alla straordinarietà dell'evento, ma il mio giudizio non scaturisce solo dal fatto in sé, bensì dal confronto con i fatti storici del passato. E come rilevare la singolarità della fuoriuscita dell'acqua dalla roccia quando Mosè la percosse? Cosse. È stato il fatto straordinario che l'acqua scaturisse? No, perché l'acqua scaturisce in tanti parti della terra. Il fatto straordinario è che l'acqua è uscita da un luogo dal quale normalmente non esce, e cioè dalla roccia. Se fosse normale per l'acqua erompere dalla roccia, l'azione di Mosè non avrebbe avuto niente di clamoroso. Così è stata l'iniziativa promossa da Rai Vaticano di trasmettere la lettura integrale continuata della Bibbia, in un paese dove il cattolicesimo romano ha una quasi totale egemonia sulla morale, cioè su ciò che è giusto o ingiusto, e di conseguenza su ciò che gli uomini possono fare o non. Senza dover indagare tanto, è saputo e risaputo che il cattolicesimo romano per secoli ha proibito ai laici il possesso di copie della Bibbia, un divieto confermato nel 1229 al Concilio di Tolosa. Pazienza questo, molti uomini che hanno avuto il coraggio di predicarla sono stati bruciati vivi, altri impiccati, altri ancora torturati. Migliaia di persone sono state barbaramente assassinate per ordine del Papa, allora vigente, solo per il fatto di possedere una Bibbia e di leggerla senza l'ausilio della sua sovranità, senza andare ad indagare nei secoli passati. È sufficiente leggere organi di stampa dell'inizio del secolo scorso nei quali si raccontano episodi di sacerdoti e vescovi che bruciavano le Bibbie di chi ne fosse in possesso. A uno di questi episodi io stesso sono stato spettatore. Perciò, nella nostra Italia, anche non molto tempo fa, vi era una spietata opposizione da parte del cattolicesimo verso chi leggeva la Bibbia. Ecco perché meno, a mio avviso, meno, abbiamo assistito ad un evento di portata unica. Ora il cattolicesimo non solo è favorevole alla lettura della Bibbia, ma ne ha fatto anche uno spettacolo televisivo durato per giorni e giorni. Per chi non conosce i fatti precedenti, tutto è normale e motivo di vanto, cosa del resto che sarebbe anche per me, ma a turbarmi è il modo nel quale tutto è avvenuto. Facciamo un esempio. Una persona che odiasse qualcuno, non volesse vederlo, anzi, appena possibile compisse ogni gesto per fargli del male, se poi in seguito all'improvviso andasse a fargli visita e casomai gli portasse pure dei doni, senza chiedergli perdono, quale reazione susciterebbe nella persona così tanto odiata? Secondo voi quest'ultimo sarà felice, oppure rimarrà stupefatto e incredulo? Dove sono le scuse? Dove sono i segni di ravvedimento? Non saranno nel fatto che prima dichiari la sua colpevolezza? Ci tengo a dare uno sguardo all'indietro, perché l'attualità esce sempre dal ventre della storia. Credo fermamente che il cattolicesimo meno, come è stato detto, meno nella sua sostanza non è cambiato e non cambierà mai. Esso si avvicina a tutti senza veramente approssimarsi ad alcuno. Interagisce con tutti, rimanendo sostanzialmente ciò che è sempre stato. La forma appare aperta, ma la sostanza è chiusa. Allarga quanto già lo caratterizza, ma non cambia. Dilatando i propri confini, il cattolicesimo non fa altro che realizzare una sintesi tra universalità e mobilità. Detto questo, è evidente che lo straordinario evento della lettura della Bibbia da parte di chi per secoli l'ha proibita non mi scalfisce più di tanto, e nel mio spirito è rimasto impresso un documento originale ancora reperibile, con firme autografe dei tre vescovi recante il titolo «Avvisi sopra i mezzi più opportuni per sostenere la Chiesa romana» è datato Bologna, 20 ottobre 1553. Si conserva nella Biblioteca Nazionale di Parigi, foglio B, N 1088, Vol. 2 Pag. 641-650. In quell'anno, Gian Maria Ciocchi del Monte, Papa Giulio III, 1550-1555, incaricò tre dei più dotti vescovi del tempo, Vincenzo de Durantibus, Egidio Falceta e Gerardo Budrago, di studiare i mezzi per frenare la diffusione della riforma. Nel documento conclusivo, i tre prelati così si espressero. Finalmente, fra tutti i consigli che noi possiamo dare a vostra beatitudine, abbiamo lasciato per ultimo il più necessario. Debbono farsi tutti gli sforzi a ciò che si permetta il meno possibile la lettura del Vangelo, specialmente in lingua volgare, in tutti i paesi sotto la vostra giurisdizione. Basti quel pochissimo che suol leggersi nella messa, né più di quello sia permesso di leggere a chi che sia. Finché gli uomini si contentarono di quel poco, gli interessi della santità vostra prosperarono, ma quando si volle leggere di più, allora cominciarono a decadere. Quel libro, insomma, è quello che più di ogni altro ha suscitato contro di noi quei turbini e quelle tempeste, per le quali è mancato poco che fossimo interamente perduti. E invero, se qualcuno lo esamina interamente e diligentemente e poi confronta le istituzioni della Bibbia con quello che si fa nelle nostre chiese, si avvedrà subito della discordanza e vedrà che la nostra dottrina è molte volte diversa e più spesso ancora ad essa contraria. La qualcosa, se si comprendesse dal popolo, non cesserebbe di reclamare contro di noi fino a tanto che tutto non sia divulgato, e allora diverremmo oggetto di dispregio e di odio in tutto il mondo. Perciò bisogna sottrarre la Bibbia alla vista del popolo, ma con grande cautela per non suscitare tumulti. E, vero che è un documento ritenuto molto controverso e si pensa che sia redatto dal Vergerio, un ex vescovo cattolico che aderì alla riforma ma non fa pugni con il concilio di Tolosa del 1229, il quale giunse a proibire ai laici il possesso di copie della Bibbia, e nel 1234 quello di Tarragona, il quale ordinò il rogo delle traduzioni della Bibbia in volgare. Dati storici che non sono contestati neanche dai cattolici. Questo documento, come tanti altri simili, non è stato bruciato dai rappresentanti del clero in segno di rifiuto, come invece sono state bruciate tante migliaia di Bibbie, per cui quando i tempi cambieranno, il cattolicesimo può sempre riferirsi ad esso e riprendere un atteggiamento ostile nei confronti della parola di Dio. È probabile però che questo non avvenga, perché i cristiani aspettano la venuta di un capo religioso, chiamato Anticristo, il quale si scaglierà con violenza non tanto verso un libro ma nei confronti dei cristiani stessi, facendo loro ciò che già hanno subito, maltrattamenti, violenze, assassini. Sembra una cosa assurda aspettarsi questo proprio oggi, all'inizio del XXI secolo, quando si cerca la pace e la concordia a livello mondiale anche con manifestazioni di ogni genere. Eppure gli eventi storici del passato ne danno la conferma. Non vi è stato il periodo nel quale si riteneva giusto massacrare i cristiani? Non vi è stato il periodo in cui le esecuzioni erano anche pubbliche, mentre oggi sarebbero una mostruosità? Come arriva l'uomo a compiere ogni sorta di male? Poco alla volta. Si è detto più volte che una rana messa in acqua bollente scappa fuori, mentre se la bollitura avviene poco a poco mentre è già nella pentola, essa può rimanerci fino alla fine. E allora, come deve comportarsi il cristiano? Poiché non ci è nulla di nuovo sotto il sole, e poiché ciò che sta succedendo oggi è già accaduto al tempo dei primi cristiani, personalmente ho lo stesso atteggiamento espresso dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le cose che mi sono accadute sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che è noto a tutto il pretorio e a tutti gli altri che io sono in catene per Cristo, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Alcuni, invero, predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunziano Cristo per contesa, non puramente, pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, o per pretesto, o sinceramente, Cristo è annunziato. E di questo mi rallegro, anzi me ne rallegrerò anche per l'avvenire. 1.1.2.18. Dunque, nessun rammarico, nessun dolore. L'importante è che la parola di Dio sia predicata. A Dio il compito di toccare, parlare, ravvedere, convertire, far rinascere l'uomo, perché, come sta scritto, la benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza appartengono al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. AP 7.12. Maggio 2009. Ellero.